La scuola delle donne presenta George Eliot. Il mulino sulla Floss di George Eliot, pseudonimo maschile di Marianne Evans, è la storia di una ragazza straordinariamente intelligente e dotata, a cui non è permesso non solo di scegliere liberamente, ma nemmeno di sfruttare i suoi talenti. Infatti solo il fratello verrà mandato a scuola. Se può sembrare che questo sia un argomento ormai vecchio, si pensi che in molte aree del pianeta è ancora così e che da noi, sebbene alle ragazze sia permesso andare a scuola, l'istruzione che viene impartita è totalmente patriarcale. Inoltre, è sempre bene ricordare con cosa si sono confrontate le nostre antenate per ottenere ciò che noi oggi trattiamo con sufficienza e diamo per scontato. That's because you're a man and you have power in the world. Questo perché sei un uomo e hai potere nel mondo. Urla Maggie Tulliver, avvertendo suo fratello Tom che non sarebbe mai stata passivamente obbediente nei suoi confronti. Una grande penna, una grande mente, una grande ribelle contro la moralità vittoriana. Non potrei amare un uomo che si rende ridicolo. Fred diventerebbe prete solo perché ciò gli darebbe una certa rispettabilità, e credo che nulla sia più disprezzabile di una rispettabilità siffatta. Pensavo la stessa cosa del reverendo Krause, con la sua faccina espressiva, il suo ombrello elegante e i suoi discorsi affettati. Che diritto hanno uomini così di essere i rappresentanti della cristianità, come se fosse un'istituzione costituita per creare degli idioti rispettabili? Scrive in Middlemarch, considerato il suo capolavoro. Di George Eliot, per la scuola delle donne, viene proposto il mulino sulla Floss. Perché nella protagonista Maggie Tulliver l'autrice mette tutta la sua frustrazione di donna senza casta. Aveva infatti scelto deliberatamente di infrangere tutte le regole della morale vittoriana e aveva pagato un prezzo altissimo per la coerenza verso le sue scelte, l'isolamento. Lesse Ralph Waldo Emerson, il filosofo trascendentalista americano che influenzò anche Louisa May Alcott delle Piccole Donne e Johanna Spyri di Heidi, e rinunciò ad andare in chiesa poiché non sopportava più l'ipocrisia del clero. E suo padre la rinnegò e non le rivolse mai più la parola, nemmeno in punto di morte. Aveva rinunciato al matrimonio, poiché non cercò mai di sembrare stupida, cosa che veniva caldamente raccomandata alle fanciulle dell'epoca per poter trovare un buon partito. Era il tempo in cui alla donna veniva chiesto di essere solamente bella e docile. Nessuna delle due cose fu mai la Elliot, e la sua mancanza di bellezza fu ciò che tenne lontani da lei gli uomini finché non trovò il compagno della sua vita, che seppe amare e apprezzare la sua incredibile intelligenza. Ma il suo uomo era sposato. Vissero insieme in Germania fino alla morte di lui come marito e moglie per 25 anni, ma il mondo sapeva che non erano legalmente sposati e non la perdonò, sebbene fosse già famosa e riconosciuta come scrittrice. Fu isolata per tutta la vita e rinnegata anche dal suo amatissimo fratello che per anni non volle più sapere nulla di lei. La sua incredibile produzione letteraria cominciò con la traduzione dal tedesco della vita di Gesù. Trovò lavoro come redattrice e poi come direttore responsabile di una delle riviste dell'editore londinese Chapman. La rivista fiorì e le permise di vivere del suo lavoro, ciò che fu più tardi apprezzato da Virginia Woolf, la quale scrisse che se Elizabeth Gaskell fu una mamma per lei, George Eliot fu certamente una zia, nella quale si identificò la stessa Virginia, che non fu mai madre, ma fu zia. Marianne usò un linguaggio crudo e spesso popolare quando riportava i dialoghi del popolo. I suoi romanzi sono affreschi storici sulla comunità rurale inglese, i quali, al di là della vicenda, raccontano gli avvenimenti dell'epoca con profonda attenzione e analisi sociologica, economica, psicologica e filosofica. Scrisse nel dialetto rurale della gente semplice e abolì la figura dell'eroe o dell'eroina. I suoi personaggi sono persone comuni che fanno del loro meglio con gli strumenti che hanno. In Middlemarch è una delle protagoniste femminili, la ricca Dorotea, a volere con ogni mezzo costruire nuove case più sane per i poveri della parrocchia. Fu questo che fece arrivare i suoi romanzi al cuore di tutti. Non militò ufficialmente nelle fila del nascente movimento femminista, sebbene lo abbia ispirato molto. Marianne riteneva che prima di votare le donne dovessero essere adeguatamente istruite ed educate. Ebbe una cultura vastissima. Nacque all'inizio dell'Ottocento, contemporanea delle sorelle Bronte e di Elizabeth Gaskell, in una famiglia di ricchi agricoltori. Non si stancò mai di studiare, apprese il tedesco, il latino, l'ebraico. Potrebbe riferire a se stessa la descrizione della piccola Maggie Tulliver del mulino sulla Floss, e forse proprio perché suo padre la ripudiò, ella invece mise in bocca a Mr. Tulliver parole di ammirazione per la sua bambina. Capisce tutto quello che si dice, che l'eguale non si è mai vista, e la sentiste leggere. Correntemente, come se sapesse già tutto prima, e sempre sui libri. Ma questo è un male. È inutile che una donna sia tanto intelligente, non può portarle che dei fastidi. È un vero peccato che non sia un maschio. Avrebbe potuto tenere testa agli uomini di legge. Mio figlio invece è impacciato, legge a stento, non può soffrire i libri, e poi non lo sentirete mai dire delle cose intelligenti come fa invece la bambina. Marian George Eliot scrisse alcuni tra i più acclamati romanzi di tutta la letteratura anglofona: Middlemarch, Il mulino sulla Floss, Adam Bede, Silas Marner, Daniel Deronda. Prese la parte delle donne e trasmise loro, con i suoi scritti e la sua stessa vita, poiché visse e viaggiò liberamente, che le donne possono effettivamente vivere e pensare con la loro testa, senza necessità di nascondere la loro intelligenza e il loro talento, purché siano disposte a pagarne il prezzo. Alla morte del suo compagno si sposò finalmente con il suo banchiere e tornò in Inghilterra, dove fu riaccettata dal fratello, ora che era legalmente sposata. Ma morì 4 mesi dopo il matrimonio, a 61 anni, dopo essere stata per tutta la vita una libera pensatrice, tanto che fu sepolta come dissidente religiosa, in perfetta coerenza sicuramente con quanto avrebbe voluto lei stessa, accanto al suo amato George Lewis, che la amò, la sostenne e la valorizzò fino alla morte. Nel proporre la lettura di Il mulino sulla Floss per la scuola delle donne, mi sono presa la libertà di sostituire il femminile al maschile della voce narrante, poiché trattandosi di una donna che scrive, sebbene firmi con un nome maschile, ho ritenuto di rendere giustizia all'autrice in questo modo. La versione proposta è edita da Oscar Mondadori 2010, tradotta da Giacomo De Benedetti. Da Devana, buon ascolto.